Letture di Radio 24. Otto ragazzi sono stati espulsi dalla casa dello studente dell'Aquila perché sorpresi a fumare in una delle aule studio dell'istituto. Gli studenti sono tutti fuori sede, emigrati dalle loro città per studiare. Che senso ha privare questi studenti di mezzi e luoghi per studiare? Chiede Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, quando sarebbe bastato obbligare gli studenti a fare qualcosa di buono per la comunità. Gli otto ragazzi espulsi dalla nuova casa dello studente dell'Aquila perché hanno fumato nella sala studio dovranno ora non solo trovare un posto dove stare se vorranno continuare a studiare nell'università del capoluogo abruzzese, ma anche restituire i fondi già ricevuti negli scorsi mesi. Pagano salata, una violazione delle regole della convivenza che di solito costa qualche decina di euro di multa. Certo, in una sala studio non si fuma, non c'è dubbio che le regole vadano rispettate e anche i polmoni del prossimo. Purtroppo però, dopo questa punizione esemplare, si è perso di vista il punto principale. Adesso si discetta sul fatto che forse la finestra era aperta, che i ragazzi hanno fumato in giorni diversi, uno per volta, che il dirigente che ha preso il provvedimento, non dubitiamo seguendo alla lettera il regolamento della casa dello studente, è stato coinvolto negli effetti del crollo di 2 anni fa, 8 ragazzi morti, e nella successiva inchiesta. Si discute su attenuanti e aggravanti, sul fatto che 4 dei ragazzi sono immigrati per studio, che provengono da Israele. E invece, a che serve questa sanzione? Non certo a far smettere di fumare gli 8 studenti, sicuramente a liberare i loro posti, a dare il via a ricorsi e querele. Ma non bisogna avere molta fantasia per chiedersi se invece dell'espulsione dalla casa dello studente non sarebbe stato meglio adottare una sanzione anche dura, ma utile. Obbligare gli studenti fumatori a fare qualcosa di buono per la comunità, per la città, per la casa. Perfino, per contrappasso, a raccogliere le cicche. Che senso ha privarli dei mezzi e dei luoghi per studiare? In un paese come il nostro, dove di solito le multe non si pagano perché si trova sempre un cavillo a cui aggrapparsi, spesso le sanzioni sono spropositatamente dure perché l'unica funzione che rimane è quella di spaventare e indurre a non violare le regole. In questo caso, ci auguriamo che prevalga la mediazione proposta da uno dei dirigenti dell'Associazione della Casa dello Studente per far rientrare gli 8 studenti, senza sigarette. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Perdere la casa all'Aquila per aver fumato una sigaretta, di Gianna Fregonara, dal Corriere della Sera di lunedì 7 marzo. Letture di Radio 24. La morte della coppia di avvocati nel centro di Milano, dovuta ad alcol, metadone e droghe, dovrebbe alzare il sipario e gettare luce sul problema delle dipendenze tra le classi medie e borghesi. Nella generazione dei genitori Peter Pan, potrebbe non essere sufficiente la sola attività preventiva nelle strutture dedicate ai giovani. Anche la cosiddetta droga dei padri è un problema da affrontare. La coppia di avvocati trovata morta dopo parecchie ore nel centro di Milano, tra bottiglie di alcol, flaconi di metadone, cucchiai anneriti e una pipetta simile a quelle usate per fumare crack, apre, spero in modo serio, il problema dipendenze tra le classi medie e borghesi. Continuiamo a pensare che la droga sia problema soprattutto giovanile e adolescenziale. Le attività preventive e di recupero sono finalizzate alla scuola, alla famiglia, al tempo libero, sempre privilegiando i nostri figli. Anche i nuovi interventi che stiamo organizzando in seguito all'esplosione dell'alcol tra i ragazzi della scuola media non tengono conto che gli stessi problemi occupano cuore, testa e corpo di non pochi quarantenni. Non è vero che gli adulti bevono meno dei giovani. Non credete alle statistiche fatte a tavolino. In Italia si beve troppo e soprattutto ogni casa ha la sua cantinetta ben rifornita. I drammatici segnali che ci vengono già da tempo dal mondo adulto e più volte da noi operatori del settore denunciati, sono stati dribblati o maliziosamente coperti. La quantità di coca che gira nel mondo dei professionisti è spaventosa, ma guai ad alzare il sipario. E faccio sempre più fatica a capire perché le forze dell'ordine non possano cogliere in flagrante fior di signori, normalissimi e insospettabili, nelle cene, nei raduni e negli incontri. Già altre volte ho scritto e detto di padri e figli che si fanno insieme. Certi genitori sono peggiori delle loro creature. E peggio sono, più esigono che noi salviamo in tempi brevissimi e miracolosi gli sgangherati loro figli. la disintegrazione delle famiglie, i soldi facili, la paura della solitudine causata da divorzi, separazioni, convivenze scabrose, le relazioni tra genitori e figli inesistenti o egoisticamente rilassate, le regole minime sparite da tempo dal vocabolario, scatenano non solo tragedie legate alle dipendenze, ma inquinano l'intero panorama sociale. Mai la nostra Italia è stata tanto superficiale, guardona, immatura. È stato inventato lo slogan di genitori Peter Pan. Credo che siamo messi anche peggio. Siamo più in basso, a livello dei Sancho Panza, dei Capitan Fracassa, dei Sette Nani. La coppia milanese dalla quale sono partito per la riflessione era già conosciuta dai servizi sociosanitari. La loro morte non chiude un problema, ma spalanca su questa classe di giovanotti capricciosi inquietanti domande. Non senso? Follia incosciente? Fuga dal quotidiano impegnativo? Sarà ipotizzabile un giorno nel quale anche i signori paludati verranno umilmente a bussare alle porte delle comunità, oppure chiederanno di incontrare persone che li aiutino a ritrovare la via della serenità e del cambiamento interiore. Prendiamo perciò l'occasione per snidarli e per aiutare i furbi e doppio giochisti a deporre le maschere. Facciamolo, ma facciamolo presto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La droga dei padri mai diventati adulti di Antonio Mazzi, da Famiglia Cristiana, del 6 marzo. Sonja Enie, storica pattinatrice nata a Oslo nel 1912 e morta di leucemia a 57 anni, avrà il suo piccolo museo e una statua dedicata nel parco di Vigeland, nella sua Norvegia. Figura controversa, grande sportiva prima di tutto, poi amica di Hitler durante il nazismo e vincitrice di 3 ori olimpici, 10 mondiali e 6 europei, divenne nel tempo una star milionaria. Le hanno dedicato un piccolo museo e una statua nel parco Vigeland, lontano dall'urlo di Munch, dal centro e dalle rotte turistiche, nel tentativo di onorarla, ma con misura, perché se c'è una Leni Riefenstahl conficcata nel cuore di ogni nazione attraversata dalla guerra, quella della Norvegia è Sonja Enie. Prima donna sul ghiaccio, nata borghese a Christiania, l'attuale Oslo, nel 1912 e morta di leucemia a 57 anni su un volo da Parigi alla Norvegia, dopo aver conquistato l'impossibile, 3 ori olimpici, 10 mondiali e 6 europei. Sposato 3 mariti e sedotto Adolf Hitler, protagonista di 15 film a Hollywood e di una vita bulimica al punto da non farsi mancare niente. Il trionfo e la sconfitta, i soldi e l'alcol, l'amore e le accuse di filonazismo che l'hanno portata lassù, in un'ansa del parco Vigeland, invece che sulla Johansgate, la principale via pedonale di Oslo, dove probabilmente, se vincerà i 5 ori promessi in questo mondiale di sci nordico alla volatona finale, sarà installata ben presto, in versione bronzea, la Bjørgen. Nessuna sarà mai più come Sonja, la figlia prediletta del pellicciaio che assunse la ballerina russa Tamara Karsavina per trasformare la bambina che a 9 anni aveva sbancato i campionati senior di pattinaggio in una celebrità precoce. Nel 24, a 12 anni, è ottava ai giochi di Chamonix, innovatrice. È la prima ad accorciare la gonna e a farsi coreografare l'esercizio. Vorace. La Slutskaya detiene 7 corone europee e la WIT 6, ma nessuna ha mai vinto 3 ori olimpici consecutivi e 10 iridati di fila. Famosa. Le sue tournée a fine carriera da Praga a New York attirano i paparazzi e richiedono la scorta della polizia. È controversa. Apprezzata dal Führer, che gratifica del saluto nazista durante un'esibizione a Berlino alla vigilia dei giochi di Garmisch-Partenkirchen del 1936, amica personale di Goebbels, Sonja viene trattata con i guanti durante l'occupazione nazista della Norvegia, mantiene status sociale e proprietà, visibilità e potere, attirandosi le critiche e la condanna pubblica dei connazionali. Per questo emigra negli Stati Uniti, che nel 1939 le dedicano la copertina di Time Magazine e nel 1941 le concedono la cittadinanza. Sonja ormai è una diva del cinema, una Esther Williams sotto zero. I produttori e gli agenti di Hollywood se la contendono. La 20th Century Fox la mette sotto contratto. Gli sponsor fanno la fila. All'apice del successo, Sonja Enie è una donna da 2 milioni di dollari all'anno, una cifra spropositata per l'epoca. In mezzo a 3 facoltosi mariti norvegesi, infila amanti noti, pugile Joe Louis, gli attori Tyrone Power e Van Johnson, e meno noti, i partner sul ghiaccio Jack Dunn e Stuart Reborn. Clamorosi insuccessi, Holiday on Ice in Sud America nel 1956 è un disastro. E infine, l'alcolismo. Sempre più vicina a un'uscita di scena da vera diva, la morte sul volo di linea Parigi-Oslo il 12 ottobre 1969, a metà degli anni 60 le viene diagnosticata la leucemia. È seppellita sulla collina di Bærum, da dove può godersi una fantastica vista sulla Oslo innevata di questi mondiali, il playground di Marit Bjørgen, che paragonata anche a mezza delle funamboliche piroette esistenziali di Sonia, è di una noia mortale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Soldi, amori e nazismo. Sonia nella storia sui pattini di Gaia Piccardi, dal Corriere della Sera di giovedì 3 marzo.